dire qualcosa, presentati alle cene. È come sentire il fiato sparire mentre anneghi, è come rimanere senza Dio mentre lo preghi, è come dirle ti amo mentre la neghi, è come sapere la verità mentre la neghi. Sai che mi riferisco a quel vuoto che non ti spieghi, e puoi vedere la luce laddove tutti sono ciechi. Al sorgere del sole vedremo che ancora in piedi, perché è un mondo di mostri e qua stanno cercando ciechi. Metti che reciti una parte in pieno delirio idroponico, e dietro le pupille rovesciate copri un polipo. È il vero te, non distorto dalle ambizioni, è lui che muove le tue azioni fin dal liquido amniotico. È comico, per sollevarti ti strai una pista, e forse per salvarti ti serve un lobotomista. Ma andiamo oltre, bastano poche parole a risvegliare una coscienza più grande mai stata vista. Le mani più bramose sono quelle dei servi, rimasti da sempre nell'ombra per detronizzare il re. E le acque più insidiose sono quelle in cui ti perdi nel sussurro di una voce che senti soltanto te. Soltanto sera la tua mente per far sì che la sua non si spenga. Potrai solo esplodere come crack. Il mistero delle tue ultime gesta sarà leggenda, resteranno parole incise nel legno. Croatoan, quanto amaro il dolore di oggi nel ricordo della gioia di ieri. La gioia di ieri, artista, aforisma, l'essenza e l'indifferenza del pessimista nell'essere realista. Non sai quanto aspettavo, io sono uno stratega, tu eri la mia preda, ma è chiaro non lo sapevi. Se ti ho concesso il ruolo da protagonista è solo perché rientra nel mio lavoro da regista. Burattini appesi a fili fatti di immaginazione, i destini sono scesi a patti con le persone. Difatti le promesse sono ammesse al compromesso di essere se stesso, solo all'occasione. Quanto è pura la paura, mostra la vera natura nascosta dietro all'armatura. E spesso chi la indossa trascura che anche una sola fessura possa rivelarsi una tortura. Io so cosa ti disturba, spiragli di vento che soffiano da porte che hai lasciato socchiuse. L'orgoglio è l'arma più forte, ma lo è anche a doppio taglio, perché quando sbagli non accetta scuse. Immagino il dolore atroce nel sentire quella voce che bisbiglia. Come te lo devo dire, che ogni ora che passi a pensare alla persona che ami, per quella sarà un battito di ciglia. Guardami negli occhi, posso leggere i tuoi ricordi più remoti, i tuoi incubi, i tuoi sogni, macchine del tempo di cui hai privato l'uso per il futuro, dato che non dormi. Ossessionato dal passato rimane solo quella dei ricordi, l'ombra di quello che un tempo fossi. Potrai scrivere guardandoti negli occhi, capiresti chi sei più di quanto hai fatto fino ad oggi. È come sentire il